quelli sono i coliseo che si devono fare. Sì, che ci sono invece, chi l'ha detto che non ci sono? Natalino. Non si capisce molto se sovrappongono le modulazioni. Sì, Natalia, diciamo che è stato un questo per conto mio molto buono, veramente. Oltre al fatto che abbiamo ottenuto il risultato che volevamo ottenere, per cui, o meglio, che voleva ottenere Claudio, tutto lì, perché era una cosa nuova che lui aveva appena acquistato, e però al primo impatto non era andato bene, infatti glielo abbiamo subito bocciato al primo impatto, e anche lui, ascoltandosi, lui personalmente se l'ha bocciato da solo, però poi con la discussione che abbiamo fatto, tutto si è messo a posto, tutto si è risolto, per cui è andata bene così. Va bene, avanti Claudio. Ok, allora ho rimesso, giusto per far ascoltare a Franco e forse anche a Natalino, questo è il Thunder più 2 sul 440, Franco, Thunder più 2 sul 440, vai. Aspetta, meglio dell'NC60, ma bello veramente, più piena la modulazione, si era cambiata un bel... Te l'ho detto, modulazione chiaramente non è la mia timbrica, però è una bellissima modulazione, molto apprezzata da tutti, bella calda, bella corposa, tieni conto che questo è un microfono con una capsula ceramica ad alta impedenza, quindi siamo riusciti a farla scendere un pochino di impedenza, il microfono è a 1, l'abbiamo regolato così, e il 440 rispetto all'MC60 è a 1, mentre invece con l'MC60 lo tengo a 1,5, quasi 2, per farti capire, amplifica tantissimo ed è, come ti ho mandato la foto, veramente un signor microfono, tutto qua Fra. K, sì, no, è una bella modulazione, caspita, se riesce così con K è un gran microfono quello. L'MB più 4, buttato ci vuole, sentito la Giulia quando ha attaccato l'MB più 4 lì? È quello che sto usando adesso, Natalì, l'MB più 4 sul K, sto usando adesso, volume a 5 del microfono, tra l'altro c'è sempre la batteria, perché è alimentato dalla sua batteria, non dalla corrente della radio, sia ben chiaro, no, quello non l'ho toccato, ho messo l'alimentazione sua originale della batteria del microfono e basta. Tutto lì, vabbè, sembra che piaccia anche questo, per cui addirittura mi hanno detto che è più bello, è più forte del 60, se pensa un po' cosa vuoi metti via, Natalì. Io credo a quello che mi dicono, perché è giusto che sia così, ci mancherebbe altro, ma tutti mi hanno confermato che va molto bene, per cui lo tengo, naturalmente non è che butto via il 60, sia ben chiaro, ogni tanto attaccherò anche quello, però adesso, visto e considerato che è in ballo il microfono ZG, perché è uno ZG, e allora usiamolo per un bel po' di tempo, vai, tutto lì, avanti Franco. Sì Claudio, sì, ho visto, aspetta, no, è bello, è veramente bello, sì, è che il tuo... Giulio, è bello, anche l'MP4 va bene al capo, c'è una modulazione molto più squillante dell'MC60. Direttamente, senza toccare il mic gain, potrei anche fare quello, ma non è necessario, perché non vorrei spaccare le orecchie a nessuno, ci mancherebbe altro. Dunque la modulazione deve essere quella, riposante e udibile all'orecchio umano, perché è inutile fare modulazioni ipersoniche, non ne vogliamo fare di quelle modulazioni lì, vogliamo fare delle modulazioni che si possano ascoltare con piacere, per cui va bene così. Avanti Riccardino. Ok, vado avanti. Io l'ho detto perché poi che ha detto Antonio che viene al cercamento, e quindi sono intervenuto perché poi non mi ha chiamato, perché sono in campo un attimo. No, non ci pensare a quello, oh, Riccardino, non ci pensare, già non ci dimentichiamo, facciamo girare sempre, no, perché se c'è magari una modulazione più bassa, e come oggi ad esempio che c'è un po' di propagazione, un video c'è QRM di propagazione, può anche disturbare certe modulazioni. Se tu magari non riesci ad ascoltare, ci parli sopra e c'è confusione in quel caso lì. Per cui tu per quello stai attento, quando ti chiamano intervieni, quando non ti chiamano stai tranquillo che già non ci dimentichiamo di te. Avanti Claudio. Un attimino di bianco ho lasciato. Va bene, sì Ricca, stai tranquillo, già ti rilanciamo. Ma non solo quello, addirittura adesso sto preparando il cavettino di alimentazione perché non me l'hanno dato. Ho preso anche l'amplificatore d'antenna, preamplificatore d'antenna per baracchino, ma non ZG, 030 della MFG. È tutta roba che ha ad Orbia un ragazzo che conosciamo, quindi pian pianino me la sta mandando, capito? Deve mandare anche un altro HF, un altro vintage, scusa. Adesso devo collegare questo preamplificatore d'antenna anche per i vintage, nel senso che se ci sono segnali bassi, regoli e ti porta sul segnale senza portare sul QRM però, roba professionale, ti mando la foto, è veramente bello, 030 con tutte le bande, fa veramente tutto, della MFG, poi ti dico anche il modello, per dirti sto ritirando un po' di queste cose così, capito, voglio rimettere un po' in sesto tutto, ma di cose buone, di cose belle, di cose utili, non mondezza, io mondezza non ne voglio, come hai visto questo microfono sta uscendo dalla fabbrica ed è un microfono del 1968. Questo ragazzo è di una correttezza, di una pulizia allucinante. Sono andato da un'altra parte, sempre lì vicino ad Olbia, che tu immagini, mi hanno buttato in chissà cantina, ero propenso a portare via tutte le radio vintage che aveva, erano indutti magnati da risorighi, capito? Il trucciolare delle radio, no? Il cassone delle radio che erano tutte in legno, magnati da risorighi, ma come si fa a abbandonare queste cose? Io ho fatto detto, guarda, me ne sto andando perché mi sto venendo il vomito, mi sta avendo il vomito perché non si tiene la roba così, e dove la mettevo? In culo, gli ho detto, te la metti, scusate il termine, gli ho detto, ma non la puoi buttare in una cantina dove ci sono i topi e qualche topolino, c'è, che cazzo topolino, chi ci sono solo i manni, se sono immaniato mi dai di rugassone della radio, Giulio, il trucciolare l'hanno fatto in briciole, come si fa a abbandonare la cosa così? E allora sono andato da un altro vicino a Olbia, ok, anzi dopo Olbia, esattamente a San Teodoro, e sto prendendo un po' tutta la roba che c'ha, capito Fra? Sì, è evidente che quello lì non è fregato niente, e poi magari ti rivendi a Burugari, ti rivendi la roba, e l'altro che sei andato tiene molto meglio, e ci tiene e li pulisce anche, e così si tiene la roba, non buttata in un magazzino oppure in una cantina. E purtroppo uno quando compra prima compare già, vabbè. Non li voglio, mondezza io, no, fra. Vai Giulio, che ti mando la foto di questo preamplificatore d'antenna professionale. E a me quello servirebbe, perché c'ho problemi. Ok, sì, è nata lì. Magari ti può servire, sì, il preamplificatore d'antenna, perché no? Certo, anche se devo dire che adesso bisogna vedere, ma ha detto che è professionale Claudio, dunque dovrebbe anche ridurre l'interferenza, cioè il QRM dovrebbe ridurre, essendo una cosa professionale. Io, la verità si dica, qualche annetto fa l'ho usato un amplificatore antenna, ma era sempre la solita mondezza della ZG. Mi amplificava, sì, è vero che amplificava, però amplificava anche la mondezza, per cui era meglio senza, Natalie. vabbè, è un po' come, è come il commutatore d'antenna, lo stesso discorso, sempre della ZG, che quando tu sposti l'interruttore non chiude, non c'è niente da fare, assolutamente. Se tu hai due baracchini accesi, li senti tutti e due, senti anche quella dove il microfono, cioè l'interruttore è aperto, la carità, non è possibile. Senti, quando tanto è quello chiuso, non è possibile. Te la lampada alla base, boh, non le voglio più vedere, infatti sono qualche annetto che non lo vedo più. Chissà dove ce l'ho buttato, dentro uno scatolone, comunque. Va bene, facciamo girare per Riccardino, avanti Riccardino. Ok. Guarda che te l'ho mandata Giulio, guarda. Dunque, anche io stavo cercando qualcosa, anche un amplificatore lineare, perché praticamente vedo un solo impatto sensibile, praticamente con due o tre parte volevo avere una cosa minima, non per qua parlare, stare via. Sì, Riccardi, sì. E vabbè, ma tu quando avrai il microfono non ne hai bisogno di lineare, perché dalla posizione che sei tu già esci bene, per cui non è un problema quello. Tu adesso abbi pazienza un pochino fin quando non avrai di nuovo il microfono preamplificato, e così non avrai bisogno di lineare, perché a volte il lineare ti crea dei problemi, perché il lineare bisogna utilizzarlo, anche non dico che devi essere un professore, però un minimo di esperienza la devi avere. Tu mi dirai, ma se io non lo uso l'esperienza non me la farò mai. D'accordo, ma già ne hai tempo per quelle cose, Riccardi. Pensa adesso al microfono, il lineare arriverà magari in seguito, quando sarà il momento, adesso non ti serve. Ok, sì, l'ho visto Claudio, l'ho visto, bello, bello, un bello strumento veramente, ottimo. A Natalino mandateglielo dai, Claudio. No, adesso glielo mando, Natalino sicuramente lo conosce, questo è professionale, perché era di uno, questo ragazzo appassionatissimo di roba veramente buona, c'ha tutte le bande, hai visto tutte le bande che c'ha col tune, c'ha il power che si accende quando tu vai in trasmissione, c'ha tutte le bande ABCD che sono 10, 15, 20, 40 e 80, attenzione, quindi un 0 e un 0,30, e il gain che praticamente puoi aumentare e diminuire il segnale in ricezione, è alimentato, c'è il bypass, lo puoi bypassare se ti serve o non ti serve, è una cosa, è un MFG 1020C, active antenna, preamplificatore antenna, quell'antennino che c'è, telescopica, si solleva sino a 50 cm per la taratura proprio del segnale in ricezione interno, lo puoi usare anche come preamplificatore interno, capito? È veramente un signor strumento, vai Fra. Capo, a me l'ho visto proprio l'altro giorno su eBay, l'ho visto quello lì, MFG, è bello, ho letto tutte le caratteristiche ed è bello. Sì, ma poi è uno strumento molto, molto interessante, soprattutto quando c'hai i segnali bassi, capito? Poi lo tieni collegato, non è che lo devi inserire, è come gli HF, no? Lo tieni collegato, quando c'hai i segnali bassi non fai altro che bypassare on off e lui va in ricezione e regoli dal gain, regoli il segnale sino a quando ti serve. C'ha 30 dB di guadagno, non è che sono pochi, Bello, molto molto bello, veramente un bellissimo strumento quello. Suppongo che attenui anche molto l'interferenza, quello, per darti modo di sentire bene la modulazione, certo, è una cosa professionale, sicuramente ha capacità per poter fare una cosa del genere, cioè ridurre il rumore e far emergere la modulazione pulita, o meglio, più pulita del solito. Va bene, Natalino. Sì, si è spostato giù. A me che lo voglio vedere. Giulio! Sì, dimmi! Ti sei spostato di frequenza? No! Quanto perché per 0,75 questo? No, per me sei fuori. Mi la Claudio. Guarda che devi aver toccato l'USB e l'SB. No, non sei più a in AM. Aspetta che guardo, accendo qua, boh. No, e poi sono in AM, vediamo. Qua così. No, non lo so. Non lo so. È giusto qua. Adesso sei tornato alla normalità. Te l'ho mandato Natalia. Hai toccato involontariamente qualcosa, ti sei spostato perché sembravi in banda laterale. Forse ho toccato il VFO come ho spostato il microfono. Sarà quello, eppure è ritornato normale. Va bene, sì? Sì, adesso va bene. Perché appunto qui è 27.075.00. Ma si vede che per un attimo ho toccato il VFO e magari ho spostato di qualche hertz. Sarà così sicuramente. Va bene, dai. Cose che succedono. Vabbè, avanti Riccardo. Ok, ma come che succede questa cosa? Ma hai toccato tu? Oh, perché a me non succede mai. Hai toccato qualcosa dell'apparato? Vai. Sì, perché io sto andando a sintonia continua e evidentemente ho toccato il VFO, ho toccato e si è spostato di frequenza e poi senza nemmeno rendermene conto come ho fatto il susseguente movimento si è rimesso in carreggiata e dunque è tornato alla sua frequenza normale, giusta? Va bene, dai, va bene. Avanti Franco. Cazzo, adesso sei tu di nuovo. Posso fare, è vero, si è spostato. Probabilmente allora ha giocato lo VFO, dai. Va bene Luigi. Adesso è tornata alla normalità. Avanti Claudio. KK, va bene, sì, sì, queste cosette che sono importanti, dai, adesso vediamo questo coso se va bene, perché l'alimentazione, questo è 12 volt, sto guardando che ne ho tanti di questi cosi, va bene, adesso controlliamo se alimenta, lo alimentiamo e lo proviamo anche a vedere se si anda bene, ma è nuovo, quindi non ho dubbi, dai, ok. Avanti Natalì, riprendi, te l'ho mandato, l'hai visto, lo conoscevi? Natalì, non riprende più nessuno, aiuto, fa vedete. Io pensavo che c'era Natalì, non so, siccome non lo sento io, né a lui né a Marco, pensavo che c'era qualcuno di loro parlando. Oh Claudio. Sì, dimmi. Sono SQRX perché sto cucinando, dai. Volevo dire, ma qual è questo microfono che stai dicendo? È da tavolo o palmare? Non capisco. Ma perché non te l'ho mandata la foto? È un microfono del 1968 da tavolo, si chiama Turner più 2, non te l'ho mandata la foto? Ah, quello vecchio, quello arrotondato? Quello lì sì, che è rotondo, Turner più 2 c'è scritto, questo è un microfono del 68, è un vintage nuovo, e questo lo sto usando io adesso. Ok, mi stavo usando un po', non avevo capito, mi ricordavo questo si chiamava il più 1. Come, non ti ho capito, no? Mi ricordavo che questo microfono si chiamava il più 1. No, il più 1 non c'è, c'è il Turner più 2 e il Turner più 3, capito? Questo è il Turner più 2, che è prima del Turner più 3, capito? Questo è uno dei primi microfoni che è uscito da tavolo che ha fatto la Turner, e questo è nuovo, ti ho mandato anche la foto. Hai visto Frank, la molla dietro, nello spiralato originale, cazzo è una favola, nuovo, veramente. E poi funziona bene, dai. Ok, avanti, riprendi e fai girare. Sì, la Turner avevo fatto il più 2, avevo fatto sia, come si chiama, sia da tavolo e sia palmare se l'ha fatto. Ne ha fatto due modelli, ne ha fatto. Mentre dell'altro ne ha fatto solo da tavolo, avevo fatto il Turner più 3, quello lì. Così è Claudio. Sì, il più 2 ci esce anche da Palmo, che è uguale a questo, sempre celeste, mentre il più 3 ne ha fatto diversi modelli, il più 3 originale e quello grigio, il primo che è uscito. Poi hanno fatto il più 3B che è nero, però insomma è un ottimo microfono lo stesso, dai. Io un giorno mi è scappato, dai, da un tratto lì a Sassari l'ho visto quello, il Palmare più 2, e l'ho lasciato pensando che era un microfono qualsiasi. Abbiamo raggiunto in internet, ha giocato, mai cosa mi ha giocato il K, sono salito e non c'era più. Ma questo io ce l'avevo già sott'occhio, ma quando me l'ha dato si vedeva che era nuovo, l'ho solo pulito, disinfettato, ho passato lo straccetto con uno sgrassatore sul cavetto ed è nuovo, cioè se tu lo vedi dal vivo, ma nella foto non si vede, ma ha tutte le sue scritte, ha tutte le sue cose, quindi diciamo che è in perfetto stato. Ok, avanti Giulio, riprendi. Ok, ditemi una cosa, la ventola la sentite adesso? Ho attaccato la ventola, la sentite? Sì. Beh, certo, è vicinissimo al microfono, avanti, la attacchiamo così. Però la supero, quando modulo la supero, il rumore della ventola lo supero, vero? Sì, già la superi. No, Abuglia va bene, dai, Abuglia la superi tu. Ok. Se puoi farlo, me lo fai un video e me lo mandi per sentire com'è con questo microfono la mia modulazione. Ti dispiace? Aspetta a vedere, dove ho messo il telefono? Ah, eccolo qua. Aspetta. Vabbè, dopo quando mi tocca di nuovo il passaggio, quando sto parlando tu mi fai il video. Avanti Claudio. Sì, va bene, se te lo fa lui non c'è problema. Ok, va bene, dai, appena che sarà pronto me lo dirà e così io parlo e mi farà il video. Avanti Natalino. Rimango con Rix, dai, che sto cucinando. D'accordo Natalino, d'accordo, prepara cosa buona, dopo quando è pronto ci chiami e veniamo tutti lì. Avanti Riccardo. Aspetta Ricca, parla Giulio. Ok, attento Franco, fammi il video che voglio ascoltare come arriva la mia modulazione lì da te a quella radio lì, e suppongo che sei col professionale per avere una recensione valida, dai, anche se magari so benissimo che hai dei baracchini abbastanza buoni, per cui la modulazione sarebbe bella ugualmente. Ok, avanti Franco, io do il microfono a Claudio e dopodiché me lo mandi direttamente o su WhatsApp, grazie comunque. Avanti Claudio. K, va bene, ok. Ma stai uscendo benissimo Giulio, non c'è problema, ottimo per la truppa, alla grande, dai. Va bene, avanti, ma Marco non c'è più, Marco Condo ci sei? Aspetta, Giulio, ti ho fatto, vabbè, tutto, solo cosa ti ho fatto, non ti ho fatto il video proprio, ti ho fatto come si chiama, la voce su WhatsApp, no? Ah, ok, va bene lo stesso, adesso l'ascolto, grazie, riprendi qua. Ok dai, ma già vai bene Giulio, non c'è il problema. Avanti Riccardino. Ok, non lo so, mi sa che vado a perché devo fare il garage, perché ho trovato tempo la polvere, voglio provare qualche apparato della macchina e faccio due prove a vedere se diciamo tutti bene. Va bene, noi siamo qua, dai, quando vuoi siamo qua. Ok, avanti Giulio. Ok, sì, stavo ascoltando, sì, già mi piace, grazie. Vabbè, dai, chissà cosa può pensare uno che non è appassionato di baracchino, chissà cosa può pensare di noi o qua, questo me lo sono chiesto diverse volte, ma siamo dei ragazzini che giochiamo col baracchino o che? Vabbè, chi non è appassionato non può capire certe situazioni, assolutamente no. Chiamiamo a Riccardino, avanti Riccardino. anche due o tre perché è un sì, l'ho chiesto l'altro giorno a un risultato che mi hanno fatto andare a Cina quando eravamo ieri, quando eravamo all'argentiera che c'è la propagazione che ho provato in italiano, che mi è una capolanza che è sulla propria. Ma no, Riccardi, non lo so, io quando tu eri all'argentiera io non ti sentivo, non ti sentivo assolutamente, non lo so se tu sentivi me, tu mi sentivi me? Un po' pazzo eri, sentivo i conti, Roberto e Claudio. Lo so, lì loro, essendo in quella posizione, è chiaro, se non ti sentono loro, non ti sente nessuno, ma sai, stai tranquillo, questo è. E poi l'argentiera, si sa, è una zona molto, ma molto critica, intanto perché è dalle parti di Alghero, e io per Alghero non è che vado molto bene, però comunque è già tanto se riuscivi ad ascoltarmi, basso o meno, però era chiara la modulazione almeno. Era chiara, era del proprio basso. Vabbè, allora era quello che interessava. È quello che interessa. È interessante arrivare in maniera chiara senza che uno debba attaccare l'orecchio all'altro parlante del baracchino. Va bene così, va bene così. Avanti fra. Ecco, sì. Va bene, dai ragazzi, io vi lascio perché devo andare a mangiare. Ci sentiamo. Ciao Claudio, ciao Marco, tutti gli altri, dai che ci sono Natalino, e se sono ancora all'ascolto, e ciao Giulio, e ciao Claudio e anche a Corso. Allora, adesso non mi ricordo il nome di Riccardo, dai, anche a Riccardo, ci sentiamo magari stasera. Ciao a tutti, buon pranzo, quando lo farete è buon tutto. Avanti Claudio, fai girare. K, va bene, dai, ok, ci sentiamo fra, ciao, tante cose belle e alle prossime, dai. Sto andando un po' col 140, se no la radio rimane sempre ferma. Avanti Giulio per salutare a Franco. Ok, ciao Franco, grazie della chiacchierata, stasera, dai, ci sentiamo stasera, così scambiamo altre quattro chiacchiere e così tiriamo, cioè consumiamo il tempo, dai, alla grande, ciao, ciao ancora fra. Avanti Riccardo per Franco. Ok, ciao Franco, a risentirci più tardi, e cambio. Ok, dai, ci sentiamo. Ascolta Giulio, una domanda. Ma per entrare su Roger K devi iscriverti? No, assolutamente. Assolutamente. Tu scrivi Roger K, basta, sulla tastiera scrivi Roger K, invii e ti appare quello, e poi ci sono tutti i commenti di varie persone che sono iscritti. Se vuoi ti puoi anche iscrivere, così almeno puoi entrare e anche tu puoi dare, fare i tuoi commenti, ma io non mi sono mai iscritto, io leggo i commenti degli altri e basta, fra, tutto lì. Ah, ecco, sì. No, perché mi esce una scritta, un coso mi esce, ti devi scrivere via e non ti fa entrare, capito? Va bene, dai, va bene così, allora. Ciao, buon pranzo, buon tutto. Ok, ciao, fra, di nuovo, dai, buon pranzo a te. Alle prossime, vai Claudio. Claudio si è un attimo assentato, sicuramente, vai Riccardino. Sì, come ho detto, ciao Franco e a tutti. Il Turner, guarda, è un microfono molto molto antico, nel senso che è un microfono degli anni 70 o giù di lì, anche prima degli anni 70. Per cui se lo trovi sicuramente, però te lo fanno pagare, ma quello è un altro discorso, il fatto che uno te lo faccia pagare una certa cifra. Il problema è se te lo mandano buono o ricadini. Il problema è quello, perché tante persone sono disoneste e magari non funziona e se lo prendono ugualmente tramite computer ed ecco magari non riceve e non funziona. Il problema è quello. Io ce l'ho uno, il Turner, sì che ce l'ho, però non lo sto usando al tempo perché mi si era rovinata la capsula, per cui non ho mai pensato né di sostituirla, anche perché è una capsula un po' particolare, potrei sempre mettere un'altra capsula ceramica, poi siccome qualche nozione di elettronica riguardo ai microfoni io ce l'ho e potrei anche recuperarlo, però non ci ho mai pensato, l'ho messo da parte e basta, niente di più, ricavi. Ho capito, ho saputo anche il mio, me lo stavo controllando, mi hanno detto che manca la capsula, la cosa più importante è quel microfono, poi era dall'alimentazione, sono i casi di alimentazione e quindi come ho detto io dopo 5-6. Giulio, devo mangiare il cane, arrivo subito. Ok, qua, d'accordo, e intanto fra un po' andiamo a pranzo. Ok, sì, Riccardo, l'avevo sentito quel particolare lì, l'avevo sentito, e ti hanno fregato, praticamente sono stati dei disonesti, però, ripeto, quando compri così da un privato, bisogna fare molta ma molta attenzione, perché io consiglierei sempre di non comprare mai dal privato, bensì da un negozio, anche se di seconda mano, perché ci sono i negozi che vendono queste cose, però sono negozi e dunque non ti possono fregare quelli, perché quando comprano un qualcosa loro di seconda mano, poi se lo rivendono, però prima lo testano per vedere se funziona, perché un negoziante non fa queste figure. Io l'ho preso così, non comprare mai da un privato nessuna cosa, niente. Quando devi comprare qualcosa, anche vintage, tu compra sempre dai negozi, perché i negozi prima di vendere provano le apparecchiature e dunque e poi ti danno anche un minimo di garanzia, perché se non funziona glielo puoi restituire, invece al privato e chi è questo? Quando si prende i soldi se ne frega poi se l'apparecchio funziona o meno, con cosa anche, col rischio che magari dentro il pacco, anziché mandarti per dire il baracchino oppure un microfono, ti mandano qualche mattone, non ti meravigliare che dentro il pacco, anziché esserci il microfono o il baracchino o quello che tu hai chiesto, ci può essere anche un'altra cosa, tipo un mattone, tanto per fare un esempio. No, non mi meraviglio, va bene, dai, ti saluto e tanto è ora di pranzo subito, per cui ci sentiamo stasera. Ciao, allora Riccardino, alle prossime, ciao. Ciao Natalia, se sei ancora all'ascolto. Anch'io chiudo, dai, perché intanto Claudio sta andando, sta accudendo il cane, pertanto è dura meno 7 minuti all'incirca, meno 8 là, per l'esattezza, ed è ora di pranzo circa, per cui chiudo, non so se sia ancora all'ascolto, dai, al limite mi rispondi per salutare e basta, e poi ci sentiamo stasera, ok? Natalia, sì. Sì, ciao Giulio, dai, buon pranzo, buon tutto. Io stavo cucinando poco fa e vi ascoltavo nel frattempo. Stai andando via giù? È quasi l'una, scendiamo giù a soffiare il fuoco. Una volta si diceva così, anche se oggi il fuoco non esiste più, oggi ci sono le cucine a gas. Una volta, io mi ricordo da bambino, si faceva il fuoco nel braciere, non era il braciere, e non mi ricordo nemmeno come si chiama, però esisteva, io l'ho conosciuta questo sistema di fare, di cuocere la pasta o qualsiasi altra cosa. C'era la cucina in muratura e dentro c'erano i fornelli, non so se tu li hai mai conosciuti, ma lo credo però, poi sono venuti fuori le cucine come si deve, gli elettrodomestici eccetera. Si metteva il carbone, si accendeva e si faceva il pranzo con il carbone sul fornello. Tu non credo che l'hai mai conosciuto, essendo molto più giovane di me. Mamma c'aveva quella legna, la tuffa, quindi cioè, faccio 61, non è che sono così giovanotto. quindi l'ho conosciuta, ho conosciuto sia quella a carbone e sia quella a legna, perché nonna aveva quella a carbone e mamma aveva quella a legna, poi li hanno buttate via e hanno tenuto solo quella a legna e poi sono arrivate le cucine come cristiane. Capito? Ce l'ho conosciuta, sì. Facciamo tutto con chi c'è noi a casa. Asciugava la roba, mamma ci aveva il tubo con i cosi per asciugare la roba. Fazia gatto, perché faceva caldo e cucinavamo pure, tutto è da fazia. Sì, infatti dopo la famosa cucina a fornello, chiamiamolo così, a fornello, a carbone, è venuta fuori la cucina a legna, quella economica, si chiamava così, cucina economica, con tanto di tubo per il fumo, eccetera, eccetera. Quella con i cerchi dalla piastra, io mi ricordo, quella serviva sia per cucinare che anche per come riscaldamento. Noi ce l'avevamo a casa, mamma ce l'aveva la cucina così, ma quei cerchi diventavano rossi, proprio veramente, guarda. E dunque faceva il pranzo su quella piastra lì, faceva il pranzo, che pure tra l'altro in inverno ci serviva anche come riscaldamento, ci serviva, certo. E beh, altri tempi qua, tempi che furono. Oggi invece siamo moderni, siamo tutti ben attrezzati, grazie a Dio, per cui va bene così, anzi va meglio, non va bene così, va meglio. Certo, era una rottura di scatole, perché vabbè, noi ce l'avevamo, mamma ce l'ha ancora, a casa Portogio c'era il giardino, quindi tagliavamo la legna, preparavamo i pezzi piccoli, mettevamo dentro, faceva tutto, cucinava, riscaldava la casa, asciugava la roba che era rugosa, via bordo tra il tubo e l'altra, aveva messo il tipo quel primo sifone a tubo che se ne stavano, e lì si faceva il gatto, capito? E asciugava anche la roba, mamma, dentro. Vabbè, altri tempi. Va bene, Giulio, sì, anch'io, dai, ho dato già a mangiare il cane, adesso prepariamo per noi, ci sentiamo stasera, dai. Un saluto circolare a tutti, buon pranzo e a stasera, se coincide, per tutti. Gappa gappa. Ok, Cla, grazie per la chiacchierata, a stasera senz'altro, con piacere, un'altra chiacchierata ce la faremo, se Dio vuole, e se non vuole pazienza, comanda lui. Ciao Cla, alle prossime, ciao, ci sentiamo, buon pranzo. Ciao Giulio, ciao, alle prossimine, ciao ciao. Ciao Claudio, anche da parte mia. Ciao Riccardi, saluto a Babbo, ci sentiamo stasera, ciao, buon pranzo a tutti. Ciao, anch'io vado in carica e ci vediamo più tardi. Ok, ciao Riccardo, a stasera, ciao ciao. Ciao Riccardo, Claudio e Giulio, chi altro ci fosse in ascolto, anch'io faccio quel restichetto per pranzare. Ok, ciao Natalino, ciao Giulio, Claudio e tutti gli altri in ascolto a stasera. Ok, ciao Natalia, allora buon pranzo a stasera, dai, fate sentire stasera e così ci divertiamo ancora un po'. Ciao Natalia di nuovo, ciao Giulio Riccardo, ciao Claudio, ciao. Ciao, ciao a tutti. Natalia, l'hai visto? Quello strumento? Sì. Lo conoscevi? L'MFG, tu che MFG già ne hai comprato, l'hai mai visto? Io non l'ho mai visto. Ma deve essere qualcosa di spettacolare. A me ne servirebbe uno, perché io ho problemi di ricezione con l'antenna così bassa. Adesso sto cercando un cavettino di alimentazione. Ne ho tanti, ma non vanno bene gli attacchi, e quindi c'è la batteria, per provarlo userò la batteria 9V, capito? C'è la batteria 9V esterna, adesso vediamo, dai, poi lo proviamo e poi vediamo come funziona. E infatti. Cappa cappa, dai che vado a mangiare, fammelo provare la batteria e poi ti dico se è fattibile o meno usarlo, capito? Però lui mi ha detto che lo usava con un'antenna piccola e le portava i segnali a 30 dB, glielo aumentava, ma solo il segnale, senza portare dentro, proprio aumentava sia la voce di chi stava parlando e sia il segnale, non il QRM. Vuole così, infatti, quelli del ZG sono una porcheria. Infatti io non me l'avevo già comprato, sapevo già che erano una porcheria e non ne ho comprato. E si conferma, va bene, adesso lo proviamo, dai, adesso me ne vado a pranzo, poi stasera magari mi chiudo qua e lo provo, cerco di fare qualcosa per provarlo. Ok, dai, buon pranzo, stasera, ciao. Ciao, ciao, Cla, altrettanto.